Se lo crede Birreno, ella s'inganna. E se Ruggero il crede, in van spera da lui costanza e fede. E già di questi rai cede all'impero. Lo segua, il cor non teme, e mio Ruggero.